Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Esplode una bomba artigianale davanti a un ufficio postale a Roma, gesto dimostrativo, non poteva ferire, dicono gli inquirenti. Antiracket, arrestata per truffa la presidente dell'associazione Salentina, indagato anche l'assessore al bilancio di Lecce. Vaccini, il caso delle dichiarazioni di Lorenzin arriva in Consiglio dei Ministri, dibattito sull'obbligatorietà, riaperto. Forza dell'ordine ancora sulle tracce degli assassini delle tre sorelle bruciate nel camper, tre le persone ricercate. Province, Caserta in dissesto e senza soldi, scuola a rischio chiusura, 56.000 studenti potrebbero finire per strada. Polemica a Lecco, in vendita online il catalogo delle donne single preso da Facebook verso denunce in procura. Concordia attesa per il verdetto della Cassazione, se condannato oggi Schettino andrà subito in carcere. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, dalla quale andiamo anche in diretta video, così come andiamo in diretta video dalla pagina di Radio 24. In apertura dunque l'esplosione avvenuta a Roma. Siamo in diretta con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Eh sì, buongiorno, tanta paura Simone, perché alle 9.15, quando si sono sentite in successione le due esplosioni, la posta di via Marmorata era molto gremita, l'edificio è un punto di riferimento importante per il ritiro nel centro storico di Pacchi e Raccomandate. La deflagrazione è avvenuta fortunatamente davanti ad un ingresso laterale dell'edificio, nel parcheggio dipendenti tra due vetture. A fornire i primi elementi raccolti dalla scientifica è stato il responsabile dell'ufficio prevenzione della questura. L'ordigno era solo uno, ha spiegato Massimo Improta, ma ha dato vita ad una doppia deflagrazione, la prima per l'innesco e la seconda per la bottiglia infiammabile contenente probabilmente benzina. Ma ascoltiamo il funzionario di polizia. Rinvenimento di un ordigno rudimentale che è esploso intorno alle 9.15 attraverso un congegno sicuramente elettrico con batteria e un temporizzatore. Alcuni testimoni parlano di due esplosioni, in effetti è un unico ordigno che potrebbe aver avuto un doppio effetto sonoro nel momento dell'innesco, quindi si tratta di un primo sonoro di basso potenziale e evidentemente il liquido infiammabile che detonando ha fatto il secondo suono più forte. Quindi non è una preparazione così banale, qualcuno che comunque ci capisce? Ma guardi, sicuramente la preparazione è tecnica, non è banale, anche se i pezzi sono facilmente recuperabili. Parliamo in termini tecnici ed artificieri, si parla sì di un ordigno rudimentale, ma dalla fabbricazione di materiale di circostanza. E sempre secondo il funzionario della questura si è probabilmente trattato di un atto dimostrativo, nessuna pista è comunque esclusa, anche quella anarchica. Allarme rientrato sempre in mattinata per un pacco sospetto vicino alla sede FAO del Circo Massimo. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Sempre per la cronaca, in manette la presidente di un'associazione anti-racket. Avrebbe intascato indebitamente 2 milioni di euro. Con questa accusa è stata arrestata Maria Antonietta Gualtieri, leccese di 62 anni, presidente di un'associazione anti-racket, la Salento. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP di Lecce Giovanni Gallo, l'hanno arrestata perché ritenuta responsabile di truffa aggravata, peculato e frode nella percezione di fondi pubblici destinati alle vittime del racket e dell'usura. La somma, che sarebbe stata indebitamente percepita dal 2012, ora è stata sequestrata. 40 le persone indagate, fra cui anche l'assessore al bilancio del comune di Lecce, Attilio Monosi. Maria Antonietta Gualtieri era tra l'altro citata in un report della Corte dei Conti di Napoli del 2014. La Corte stava indagando su un corposo trasferimento di fondi pubblici a favore di un pugno di associazioni anti-racket, le quali, secondo i giudici contabili, erano state privilegiate a discapito di altre in violazione della legge sugli appalti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questa vicenda torneremo a parlare più avanti. Adesso andiamo ad occuparci di vaccini. Oggi un consiglio dei ministri dove è prevedibile che ci sia stato un chiarimento dopo la fuga in avanti di ieri di Beatrice Lorenzin. Quello sull'obbligo dei vaccini a scuola è un caso che non c'è, Ad assicurarlo è la ministra dell'Istruzione Fedeli, che nega contrasti con la collega di governo Lorenzin. La titolare della Salute ieri aveva annunciato che è pronto un testo di legge che reintroduce l'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione dei bambini a scuola. Sono favorevole all'obbligo, ma va garantito anche il diritto all'istruzione ed è necessario un accordo con le regioni, spiega stamattina Fedeli. Fonti del governo fanno sapere che il provvedimento sarà esaminato nel Consiglio dei Ministri della prossima settimana, non in quello di oggi come aveva annunciato in un primo tempo la Lorenzin, che si dice sbigottita dalle voci su tensioni nell'esecutivo e ribadisce che sui vaccini c'è un allarme generato dalle fake news. Il governo è nel caos, attacca invece dall'opposizione il grillino Di Maio che sui vaccini annuncia a breve una proposta di legge del Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma come funziona nel resto del mondo e in particolare in Europa il servizio? Dopo i dati allarmanti sul picco del morbillo in Italia, arrivati a quasi 2000 nel 2017, si guarda anche ad altri paesi. Non solo alla Romania, che fa peggio di noi e dove pure la vaccinazione per il morbillo sarebbe obbligatoria. Si scopre che in tutta Europa è record di scetticismo. E non in tutti i paesi è obbligatorio vaccinare i bambini che si iscrivono a scuola. 280 milioni di cittadini europei infatti hanno la libertà di scelta informata sulla vaccinazione. Dipende dalle diverse scelte di politica pubblica. Il vero obiettivo è il tasso di copertura della popolazione, e cioè la capacità da parte dello Stato di convincere i propri cittadini informandoli. C'è un gap tra obbligo e adesione dei cittadini, come spiega Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Essendosi gli europei un po' dimenticati di quando appunto le malattie come la poliomielite mietevano vittime o lasciavano disabilità terribili, hanno un po' fatto prevalere questo aspetto che porta molto spesso a esitare dal punto di vista vaccinale. E l'Europa va in direzione opposta sui vaccini anche rispetto al resto del mondo. Negli Stati Uniti c'è l'obbligo vaccinale in 48 stati su 50, quindi in questo momento sono molto più protetti i bambini africani. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dunque dal fronte dei vaccini. Veniamo e anzi torniamo a Roma, dove continuano le ricerche dell'assassino o degli assassini delle tre sorelle bruciate in un camper a Roma. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Continua la caccia al killer, che avrebbe un volto e un nome. Gli inquirenti sanno chi è l'uomo ripreso dalle telecamere mentre lanciava una bottiglia di Molotov in direzione del camper dove viveva la famiglia Lilovic e i loro 11 figli, nel parcheggio di un centro commerciale a Centocelle. Gli agenti stanno setacciando ancora in queste ore tutti i campi, ma ancora non sarebbe stato localizzato. L'uomo ricercato avrebbe precedenti per furto, rapine e ricettazione, ma sembra che quella notte non fosse solo. Altre due persone infatti sono ricercate, ma non ci sono altre notizie in merito. Le indagini si stanno concentrando sui rapporti tra i clan che gestiscono il pizzo per l'occupazione dei container. Accantonata infatti la pista dell'odio razziale, resta l'ipotesi di una vendetta per un giro di estorsioni all'interno del campo, anche sulla base delle minacce che il capofamiglia Romano Alilovic avrebbe ricevuto negli ultimi tempi. Intanto il Campidoglio proclamerà il lutto cittadino per le tre sorelle rimaste uccise. Ricordiamo Elisabeth 4 anni, Angelica 8 e Francesca 20, mentre nel timore di ulteriori vendette e ritorsioni tutti i campi rom della capitale sono sotto protezione delle forze dell'ordine. Da Roma è tutto. E grazie dunque ad Alessandra Schepisi anche per questo aggiornamento. Noi adesso ci spostiamo a Bari, dove è in corso di svolgimento il G7 delle finanze con il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, appunto lavoro in corso. Teresa Trillò, nostra inviata a Bari, vai Teresa, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, qui nel Castello Svevo di Bari sono in corso da questa mattina i lavori del G7. I temi sul tavolo sono la crescita inclusiva, la cyber security e la tassazione coordinata a livello internazionale, con un focus particolare sulla web tax, ossia sulla possibilità di avere tasse eque e coordinate, e sull'economia digitale che vanta giganti come Amazon e Facebook. Ma su questo punto sentiamo cosa ha da dire il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Tassazione è un terreno sulla quale la cooperazione internazionale ha fatto moltissimi progressi e noi siamo sicuramente molto a favore di questo. La cosiddetta web tax è un tema che sta prendendo corpo, ci sono diverse posizioni nazionali, ma il G7 serve a convergere verso visioni comuni e su questo lavoreremo. Ecco, questo appunto è un tema complesso e spinoso perché le posizioni dei vari paesi sono diverse, con gli USA che sono anche un po' freddini, però qualche passo avanti che potrebbe essere registrato ieri pomeriggio, nel corso di un faccia a faccia che c'è stato tra il ministro dell'economia e il ministro statunitense Mnuchin. Ricordiamo che sulla web tax al momento sono in corso degli approfondimenti tecnici all'OCSE perché a marzo 2017 ci sarà la presentazione di un rapporto. Qui è considerato già un successo arrivare ad una dichiarazione politica comune dei 7 ministri che potrebbe poi servire all'OCSE per tracciare una linea di intervento sull'armonica tassazione dell'economia digitale. Un ultimo punto, sì. Giuseppe non si parlerà solo di web tax ma anche di crescita inclusiva, perché ha detto Padoan, senza inclusione sociale la crescita non si sostiene. E da Bari è tutto, restituisco la linea. Grazie dunque anche a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Oggi dovrebbe arrivare la sentenza di Cassazione nel processo per il naufragio della Concordia. Siamo in linea con la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. 5 anni dopo, capitolo finale per una delle più gravi e più clamorose anche storiacce italiane, quella del naufragio della Costa Concordia davanti all'isola del Giglio, 32 vittime e un solo imputato, l'ex comandante Francesco Schettino. Oggi la Suprema Corte dovrà stabilire se Schettino, se confermare o meno la condanna a 16 anni per l'ex comandante, per il quale potrebbe aprirsi direttamente le porte della carcere, oppure se invece, come chiesto dal procuratore generale, la condanna dovesse essere confermata, ma il procuratore ha chiesto una ridefinizione della pena, cioè un nuovo processo, perché a suo dire i 16 anni per i quali il comandante è stato già condannato sono troppo pochi e a suo dire un nuovo processo d'appello dovrebbe ridefinire la pena al rialzo. Intanto però la difesa dell'ex comandante ha chiesto la ammissione di un video da lui preparato in cui dimostrerebbe che non aveva abbandonato la nave, come invece gli viene contestato, e i supremi giudici sono in udienza anche per camera di consiglio, anche per valutare se ammettere o meno questo video. Gran parte delle parti civili sono state già risarcite dalla Concordia, che in totale ha speso quasi 80 milioni di risarcimento, ma se si dovesse concludere questa vicenda finale di questa grande brutta storia italiana, anche parti istituzionali come il Ministero dell'Ambiente e la Presidenza del Consiglio potrebbero avere un risarcimento in serata attesa dunque la sentenza. Simona. Grazie a Raffaella Calandra, che sicuramente ci aggiornerà su questa vicenda quando avremo le notizie. Siamo al fine settimana sportivo, in realtà gli occhi dei romanisti sono puntati a fra 2 settimane per quando Francesco Totti giocherà la sua ultima partita, ma forse anche questo fine settimana non è niente male, Carlo Genta. Ha detto lui che chissà se sarà l'ultima, insomma Totti non ha ancora parlato, non si è ancora espresso in maniera definitiva sul suo futuro, ma comunque questa settimana ci ha lasciato talmente tanti temi e tanti ce ne riserva nel weekend che parlare di quello che capiterà tra 2 settimane diventa insomma un po' tanto. Innanzitutto questa sera potrebbe essere la settimana di molti verdetti. Questa sera il Chelsea potrebbe laurearsi campione d'Inghilterra, gioca sul campo del West Bromwich Albion e Conte potrebbe diventare campione d'Inghilterra con l'Inter alla finestra. Inter nella quale, come sappiamo, in settimana è successo di tutto con l'esonero di Stefano Pioli. Ieri sera si è definita anche l'altra finale di europea, di Europa League, sarà una finale tra Manchester United e Ajax, quindi due grandi nomi che si sfideranno a Stoccolma per fare da antipasto a Juventus-Real Madrid. Ma veniamo all'Italia, perché anche qui potrebbe essere la settimana dei verdetti. Si comincia domani con Fiorentina-Lazio, che pure è importante per le ultime chance della Fiorentina di agganciare l'Europa League. Poi sempre domani 20:45 Atalanta-Milan, Inter-Sassuolo domenica alle 12:30 con annunciata contestazione da parte del pubblico interista. E poi tutte le altre gare: Bologna-Pescara, Cagliari-Empoli, Crotone-Udinese, Palermo-Genoa, Sampdoria-Chievo, Torino-Napoli e domenica sera Roma-Juventus, che potrebbe consegnare alla Juve. Basta un pareggio alla Juventus per consegnare lo scudetto. Nel weekend ci saranno anche i motori, Gran Premio di Spagna a Montmeló, le prime prove dicono che la Mercedes sta andando fortissimo. Allora, grazie dunque al nostro Carlo Genta che ritroviamo alle 14 in tutti convocati. Noi adesso ci fermiamo mentre siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, in diretta video www.facebook.com/effettogiorno se volete venire e vederci anche appunto in video e non solamente sentirci su Radio 24. Riprendiamo, già qualche ascoltatore ce lo chiede, è venerdì, dateci notizie di Igor e delle ricerche di Igor. Lo facciamo subito dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di questa esplosione di una bomba artigianale davanti a un ufficio postale a Roma. Ci siamo occupati dell'arresto della presidente di un'associazione anti-racket, vicenda sulla quale torneremo tra un attimo. Di vaccini, oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri e forse un chiarimento tra i ministri sul tema dell'obbligatorietà, e poi della vicenda delle tre ragazze rom morte, delle tre sorelle rom morte nell'incendio del camper, con le forze di polizia ancora alla ricerca dell'assassino. In apertura del nostro giro per l'Italia, dunque, andiamo ad occuparci di altre ricerche. Qualche ascoltatore già ce lo chiede di nuovo via WhatsApp e via SMS al 349-238-6666. Un ascoltatore scrive: ragazzi, avete notizie del Rambo russo? Stiamo parlando di Igor Norbert Fero, ormai scomparso da oltre un mese. Le ultime notizie sono in realtà notizie, se vogliamo, giudiziarie. Nelle scorse ore la famiglia Verri, la famiglia della Guardia Ecologica che è stata uccisa, ha presentato un esposto parlando di un rischio sottovalutato. Fatto sta che le ricerche proseguono con grande pressione anche sugli uomini delle forze dell'ordine che si trovano là. Di nuovo con noi Daniele Predieri, cronista della Nuova Ferrara. Daniele, ormai voce consueta, eccoci di nuovo. Ciao Daniele. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, novità sostanziali, si diceva, non ce ne sono se non questa pressione fortissima sugli uomini delle forze dell'ordine e i militari che stanno lavorando nella zona. Sì, come abbiamo già detto nei precedenti interventi, è successo questo. Ovviamente siamo al 34esimo giorno, per la precisione, con le ricerche che continuano e soprattutto si sono spostate in realtà verso, un po' più verso nord, verso Ferrarese, abbiamo già detto. E la notizia della settimana, che molti hanno preso anche come argomento per riderci sopra, e le ricerche ci sono anche di notte con questo nuovo aereo, un aereo comandato a distanza che si chiama Predator. Sono gli aerei americani che vengono usati in Afghanistan e in Iraq per bombardare. Qua invece lo usiamo per cercare e scovare Igor. Quindi l'utilizzo di un drone Predator appunto per cercare anche Igor. La situazione tra gli uomini che stanno effettuando le ricerche com'è? Come la vedono? Che cosa stanno pensando? Come si stanno muovendo? Certamente, come abbiamo già detto in giorni scorsi, ci sono diverse situazioni ovviamente. C'è tutta l'intelligence al lavoro per cercare di avere elementi, e soprattutto adesso le ricerche continuano lì sul posto. Tanto per chiarire, tutti chiedono sono sicuri che sia ancora lì? Loro, gli inquirenti, ovviamente partono su degli elementi oggettivi, sono dei giacigli, tre per la precisione, che hanno scovato in queste settimane. Ovviamente bisogna verificare se lui li ha usati di recente oppure no, questo è un elemento. E poi dicevamo, sono le varie osservazioni, segnalazioni, e di queste al massimo al 5% vengono prese in considerazione, da verificare, e rimane sempre comunque quella segnalazione importante di una settimana fa di quel giovane pakistano che se l'è visto davanti la mattina presto. Quindi, secondo gli inquirenti, è ancora lì. Ovviamente non ne hanno la certezza, questo è scontato, però le ricerche continuano qui nel Ferrarese soprattutto. Con una certa tensione, immagino, Daniele, anche tra la popolazione, che ormai la popolazione della zona non ne potrà più, da una parte, di avere così tanti militari e così tanti poliziotti che girano, insomma, continuamente, che incrementano la tensione proprio per la paura magari di trovarsi davanti questo personaggio. E questo è ovvio, questo è soprattutto questo il vero problema, soprattutto perché, ripeto, ci sono dei rastrellamenti in corso giorno dopo giorno, e tutti i rastrellamenti si stanno avvicinando sempre più ai centri abitati, prima era in, dicevamo, in questa valle, delle valli di Mar Morta e Val Campotto, che erano questi laghi artificiali, cioè dove c'era natura selvaggia. Adesso questi rastrellamenti si stanno avvicinando sempre più, diciamo, ai centri abitati, proprio perché si sta spostando da Consano verso diciamo, il nord della provincia, verso Ostellato, che è il punto da dove era cominciato tutto, dove oltre un mese fa venne ucciso Valerio Verri, la guardia ecologica, per cui, come tu hai già detto, i familiari hanno presentato un esposto alla procura perché si valuti se ci sia stata una sottovalutazione o meno di tutta la situazione di questo Igor, che purtroppo è ormai in giro qua nel Ferrarese da 2 anni senza che nessuno lo abbia fermato. Cercato sì, perché questa è la realtà, molti lo hanno cercato anche prima quando c'erano gli ordini di cattura, purtroppo però non è così facile prenderlo, e il fatto che non sia stato ancora preso dopo 34 giorni con uno spiegamento di forze così impressionante, che non è stato mai usato, sia chiaro, anche per latitanti di mafia e peggio, deve far pensare assolutamente. Sì. Allora io ti ringrazio, grazie come sempre a Daniele Predieri della Nuova Ferrara per essere stato con noi, e magari torneremo a chiamarti anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, torneremo a romperti le scatole per farci raccontare un po' che cosa succede in quelle aree. Il nostro giro per l'Italia ci porta adesso in Salento. Che cosa è successo questa mattina? Ci sono stati una serie di arresti. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria hanno arrestato la presidente di un'associazione anti-racket, l'associazione anti-racket Salento, Maria Antonietta Gualtieri, leccese, 62 anni, ritenuta responsabile di truffa aggravata, peculato e frode, proprio nella percezione dei fondi pubblici destinati alle vittime del racket e dell'usura. Siamo in linea con Lino Busà, che è coordinatore di SOS Impresa, che è l'associazione anti-racket con legata a Confesercenti. Busà, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi e grazie. Allora, 3 anni fa voi presentaste un esposto alla Corte dei Conti nei confronti di una serie di altre associazioni anti-racket basata proprio su questi temi, perché qua lo vogliamo chiarire bene per evitare che si getti via il bambino con l'acqua sporca. Le associazioni anti-racket fanno un lavoro meritorio perché aiutano le imprese a denunciare, le accompagnano, le sostengono, si fanno sentire anche mediaticamente quando c'è bisogno, perché anche questo serve. A volte però c'è un problema di quali e come si percepiscono i fondi pubblici. Del resto siamo in Italia e questo avviene. Che cosa conteneva, Busà, questo vostro esposto alla Corte dei Conti, che comprendeva, da quel che ho capito, anche questa associazione anti-racket? Sì, è chiaro che il nostro è un esposto di carattere generale circa le modalità di assegnazione dei fondi, che si tratta di fondi europei attraverso il PON sicurezza, perché secondo noi erano stati dati questi soldi con criteri discrezionali, non tenendo conto di tutte le associazioni antiracket e facendo un bando pubblico, ma attraverso, diciamo, delle trattative private, privilegiando alcuni rispetto ad altri. In particolare segnalammo proprio questa associazione, perché non era un'associazione nazionale, perché era collegato a un territorio, non era neanche iscritta agli albi prefettizi, quindi di fatto in quel momento non era neanche un'associazione anti-racket, diciamo, con tutti i crismi di legge. E segnalammo appunto questa situazione. Sì. E la presidente, tra l'altro, era stata candidata, perché poi parliamoci chiaro, quando i fondi vengono assegnati per così dire a trattativa privata, e questo lo abbiamo raccontato spesso quando si parla di appalti pubblici, magari a volte può succedere che dietro ci siano dei contatti politici, no? È chiaro, in questo caso noi sottolineiamo che questa associazione è un'associazione del Salento, che il sottosegretario allora con delega il senatore Mantovano proveniva proprio da quelle zone, e quindi diciamo 1 più 1 fa 2, e quindi tra una questione che poneva, gettava un'ombra sull'attività dell'associazione anti-racket, perché quello che ci premeva allora come oggi non è tanto fare una polemica fra di noi, perché non serve, e che da qualche tempo a questa parte le associazioni anti-racket e molte associazioni antimafia non appaiono più quelle che erano associazioni di volontari che con gratuità accompagnano gli imprenditori alla denuncia, ma una sorta di industria per trovare in qualche modo occupazione, soldi e via dicendo. È chiaro che questo lede l'immagine anche di coloro, come Espresso Impresa, che non ha preso un soldo, diciamo, da questi finanziamenti. Oggi è un momento particolare di difficoltà nel convincere gli imprenditori a denunciare, c'è complessivamente un calo di tensione su queste cose. La lotta alla criminalità, anche quella, diciamo, quotidiana, non sta più in qualche modo nell'agenda, nelle priorità della politica, e quindi, diciamo, questi episodi e queste situazioni contribuiscono certamente a creare un clima di sfiducia, soprattutto in quegli imprenditori che pagano il pizzo e che non trovano il coraggio della denuncia. Allora, grazie a Lino Busà, il coordinatore di SOS Impresa, Confesercenti. Lo ribadiamo ancora una volta, ci sono associazioni antiracket, e la gran parte del lavoro delle associazioni antiracket è un lavoro straordinario e un lavoro di aiuto, perché, appunto, ripeto, poi ci sono, come al solito, le mele marce, e però non va gettato, come si diceva all'inizio, il bambino con l'acqua sporca. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo. Il nostro giro per l'Italia prosegue da Caserta. Cosa succede? Alla vicenda avevamo accennato. C'è stata la legge Delrio, che ha sostanzialmente svuotato le province. È stata una legge che preludeva alla riforma costituzionale, che avrebbe dovuto abolirle, le province. Poi la riforma costituzionale non è passata e le province si sono trovate in mezzo a un guado e senza quattrini. Le province gestiscono anche tante cose, gestiscono per esempio alcune strade, gestiscono per esempio le scuole, molte scuole superiori. E cosa succede a Caserta, che letteralmente in dissesto? Rischiano di chiudere le scuole superiori e rimarrebbero per strada 56.000 studenti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: esplode una bomba artigianale davanti ad un ufficio postale a Roma, gesto dimostrativo non poteva ferire, dicono gli inquirenti. Antiracket, arrestata per truffa la presidente dell'associazione salentina, indagato anche l'assessore al bilancio di Lecce. Vaccini, il caso delle dichiarazioni di Lorenzin arriva in Consiglio dei Ministri, dibattito sull'obbligatorietà riaperto. Forze dell'ordine ancora sulle tracce degli assassini delle tre sorelle bruciate nel camper, 3 le persone ricercate. Infine la Concordia, attesa per il verdetto della Cassazione, se condannato oggi Schettino andrà subito in carcere. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, eccoci di nuovo. Prima di proseguire il nostro giro per l'Italia, andiamo a Caserta e poi andiamo a Lecco, dove c'è questa storia pazzesca, per chiudere il venerdì con un sorriso, ma nemmeno troppo, di questo catalogo delle donne single con profili rubati da Facebook, venduto online con 1200 nomi e cognomi. Prima di andare a questo, facciamo un salto all'estero per una notizia importante: l'arresto di un direttore di giornale, e ancora una volta il luogo è la Turchia. Continuano gli arresti di giornalisti in Turchia. Questa volta è toccato ad Öz Güven, direttore del sito internet del Cumhuriyet, testata laica d'opposizione e quotidiano più antico del paese, fondato nel 1923 ai tempi di Atatürk. È stato lo stesso Güven a dare la notizia con un tweet, poi confermata anche dall'agenzia Doğan. Non si conoscono le motivazioni ufficiali, ma secondo l'agenzia filogovernativa Anadolu, alla base ci sarebbe un articolo sulla morte del magistrato Mustafa Alper, che avviò la prima indagine contro la rete di Fethullah Gülen, ritenuto la mente dopo il fallito golpe del 15 luglio scorso. Alper, con il suo autista, è rimasto ucciso 2 giorni fa quando un camion ha investito l'auto sulla quale stava viaggiando. Da oltre 6 mesi altri 12 giornalisti del Cumhuriyet, tra i quali il direttore Murat Sabancı e altri amministratori sempre del Cumhuriyet, sono in carcere, mentre l'ex direttore Can Dündar, già condannato e ricercato, è fuggito in Germania. Nel frattempo la polizia ha arrestato anche una 60 di ex impiegati della borsa di Istanbul, ma in totale sono oltre 100 i nuovi arresti ordinati dall'ufficio del procuratore, tutti accusati di avere legami con la rete gülenista. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Adesso riprendiamo il nostro giro per l'Italia e ci spostiamo a Caserta. È una delle tante storie, come si diceva prima, che arrivano dalle province, province che sono rimaste in mezzo a un guado. Da una parte la legge Delrio, che in parte le ha svuotate anche di risorse, dall'altra parte la riforma costituzionale che doveva abolirle e che non è stata approvata. Caserta è un caso esemplare e forse il caso più forte, perché è un posto dove rischiano di chiudere le scuole. Allora, siamo in linea con il presidente facente funzioni della provincia di Caserta, Silvio Lavornia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Ma davvero 56.000 studenti rischiano di rimanere senza scuola? Dunque, è vero che rischiano di rimanere senza scuole 56.000 studenti, però dopo una lunga trattativa, diciamo, con la prefettura, con il viceprefetto vicario, con la dirigente scolastica regionale, dottoressa Francese, e con il dirigente provinciale, abbiamo stabilito che entro lunedì saranno chiusi quattro istituti scolastici superiori perché hanno problemi strutturali, mentre le altre stiamo interloquendo con il Ministero e con lo stesso prefetto, perché il problema si potrebbe creare gravemente con una interruzione intanto del servizio, ma soprattutto con tafferugli o quant'altro. Io ho paura per l'ordine pubblico. Ha paura per l'ordine pubblico. Mi scusi Lavornia, quindi ci conferma che comunque da lunedì quattro istituti scolastici chiudono. Sì. Per quanti studenti? Sì. Per circa 2.500 studenti e qualcosa in più probabilmente. E questi non finiscono, in sostanza questi non finiscono l'anno scolastico? No, finiranno l'anno scolastico, perché in ogni caso noi insieme al Comune di Caserta, insieme ai comuni interessati, dovremo garantire l'allocazione di questi studenti e per terminare l'anno scolastico e per fare gli esami di Stato. Quindi ci stiamo attivando in questo senso. Per quanto riguarda le altre scuole invece? Le altre scuole stiamo aspettando che ci arrivi qualche notizia anche dal Ministero della Pubblica Istruzione, che abbiamo interessato, per valutare come uscire dal guado, perché queste scuole non hanno il certificato di agibilità. Non hanno il certificato di agibilità? No, cioè, assolutamente tu, no. Mi faccia capire una cosa, mi scusi, voglio capire bene. Tutte le scuole, quelle gestite dalla provincia di Caserta, non hanno il certificato di agibilità? 92 su 93, quindi solo una ha l'agibilità, le altre 92 no. 92 su 90. Però mi scusi, questo non dipende però dai soldi, questo dipende dal fatto che non sono stati fatti i certificati di agibilità negli anni. Certamente, certamente. Adesso però ci vorrebbero i soldi per poter rendere agibili queste scuole e fare le certificazioni. Intanto noi siamo in dissesto, siamo stati abbandonati totalmente perché il decreto salva province non è mai arrivato per noi di Caserta, però è stato fatto un emendamento, predisposto un emendamento, è stato presentato qualche giorno fa al governo dall'onorevole Sgambato, dall'onorevole Sarro e altri deputati della zona, e speriamo che abbia esito positivo. Lo speriamo davvero, magari ci risentiremo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, andremo a sentire come vanno le cose appunto per quanto riguarda gli studenti di Caserta. Grazie a Silvio Lavornia, sindaco del presidente facente funzione della provincia di Caserta. Andremo a vedere che cosa succederà qua. Ci spostiamo dall'altra parte d'Italia e andiamo a Lecco per una notizia più leggera, ma nemmeno troppo alla fine. Lorenzo Colombo, direttore di Lecco Notizie, ciao, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, la storia è questa, è che qualcuno ha messo online, in realtà non solo per quanto riguarda Lecco, ma anche per quanto riguarda Monza, esatto, un libro, un ebook che è un catalogo delle donne single, ma un catalogo a loro insaputa, cioè loro non ne sapevano niente. Questi hanno preso di fatto, no, le pagine Facebook o i profili Facebook di queste persone, hanno visto dove erano collocate geograficamente, e hanno visto se erano single, perché su Facebook si può dire, e l'hanno messe sostanzialmente online e raggruppate tutte insieme, così più o meno, no? Perfettamente, esatto, sì, praticamente ha rimbalzato in rete negli ultimi giorni la presenza di questo catalogo. Noi ovviamente incuriositi siamo andati andati a cercarlo, l'abbiamo trovato, l'abbiamo acquistato e effettivamente è un catalogo in formato PDF semplicissimo dove troviamo i profili di tutte quelle donne che hanno segnalato nel proprio profilo Facebook la residenza o comunque il luogo d'abitazione a Lecco e come stato civile il fatto di essere single. Cliccando su questi profili si va direttamente al profilo della persona direttamente. Sì, qua c'è intervenuta la consigliera di parità, esatto. Adriana Ventura, chiede, cioè, addirittura si prepara a quanto pare a presentare una denuncia per questa storia qua. Sì, lei ovviamente a nome di tutta la provincia e presumo anche a nome di tutte le donne che dissente da quello che è stato messo in rete e venduto, lancia un appello a tutte le donne che sono state vittime di questa vendita, profili e quindi di recarsi direttamente all'ufficio provinciale per valutare la possibilità di un'azione al fine di tutelare la dignità di tutte quelle persone, di tutte quelle donne che sono state vittime di questa vendita a catalogo dei profili Facebook. Il catalogo delle single. Vabbè, grazie, va bene, si fa per dire naturalmente. Allora, grazie a Lorenzo Colombo, direttore di Lecco Notizie, quotidiano online della città di Lecco. Questo succede poi quando si forniscono dati in questo modo, senza prestare attenzione. Vedremo se veramente penalmente c'è qualcosa, perché insomma qualche dubbio ce l'ho. In fondo quei dati erano nient'altro che pubblici. Adesso il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.